Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buon lunedì, insomma iniziamo insieme questa settimana con Fabio Cantadori, almeno oggi, cioè poi domani non so se ci farà ancora assistenza, almeno a essere benessere, non possiamo dire, invece una garanzia Laura Vanossi ci sarà e come sempre c'è il nostro sommario, andiamo! Smile, un sorriso di salute e di benessere, osteoporosi, occhio alla diagnosi, una riflessione sulla salute mentale. Bene bene, per affrontare il tema di oggi vi suggerisco un esercizio di riscaldamento, chiamiamolo così. Sorridete e provate a pensare quante volte durante la giornata sorridete, se la cosa vi viene spontanea, se invece dovete quasi imporvela, sforzarvi un po'. Mi piacerebbe proprio che oggi, grazie alle vostre telefonate e soprattutto grazie all'aiuto dei nostri ospiti che ho già in linea e in studio e che vi presenterò tra poco, provassimo oggi a pensare al nostro sorriso nella sua duplice funzione. Come strumento di comunicazione, qualcuno l'ha definito il miglior lubrificante dei rapporti interpersonali, ma anche e soprattutto come specchio della nostra salute. Chiamateci allora, meglio se con un sorriso, per radio non si vede ma si sente, 800 24 0024, questo è il nostro numero verde, i messaggi al 349 238 6666. In linea con noi abbiamo la dottoressa Sara Viola, medica e psicoterapeuta. Dottoressa Viola, buongiorno. Buongiorno e un sorriso a tutti. Grazie. Perché lunedì oltretutto. Ci vorrebbero più sorrisi. In linea abbiamo anche, che è tornato a trovarci, il professor Roberto Weinstein, ordinario all'Università degli Studi di Milano e direttore della clinica odontoiatrica presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Professore. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono molto contenta di averla in linea. Avrei preferito averla qua insieme anche alla dottoressa Viola, ma per fortuna mi dà man forte oggi Alessandro Pellizzari, che è qua in carne e ossa davanti a me. Ciao Alessandro. Buongiorno. Vice capo redattore di Star Bene, sorridente. Sì, tu sei sorridente perché lavori in una redazione di donne. Eh sì, e quindi devo sorridere sempre, anche quando non ne ho voglia. È vero, e tra l'altro nel numero di in edicola di Star Bene dedicate proprio un servizio molto interessante sulla salute della bocca. Sì, in generale, perché ormai i denti, il sorriso, la masticazione, gli esperti, gli scienziati stanno scoprendo come coinvolgano molti distretti del nostro corpo umano che non sono legati solo ed esclusivamente alla bocca, alla masticazione. Insomma, partendo dalla bocca si può andare, esatto, lontano. Esatto. Ma professor Weinstein, dicevamo sorriso, no? Di solito quando noi ci sediamo sulla poltrona del dentista siamo un po' preoccupati, insomma, è difficile che è tradizione che sia così. Il dentista riesca a strapparci un sorriso, magari lei ce la fa, ma insomma, anche poi quando tira fuori il trapano, ci presenta il conto, ma oggi ci sono delle buone notizie che potrebbero aiutarci a vedere le cose con più serenità e fiducia? Ma direi di sì, ci sono delle nuove metodiche che consentono di porre una diagnosi di carie in tempi molto molto più anticipati rispetto al passato, sì, e quindi di trattare delle lesioni che sono molto piccole, che comporta un trattamento semplice, evidentemente poco o per nulla doloroso e, cosa non da poco, anche molto più economico. Economico, e questo ci piace, sono tutti aspetti che sicuramente ci tirano sul morale, anche perché professor Weinstein, intervenire su una carie e chiuderla, in effetti si lascerebbe quasi il lavoro a metà. Sì, esatto, era il modo di approcciare il problema della carie che si utilizzava fino a pochissimo tempo fa, vale a dire il paziente si presentava con una lesione, si eseguiva l'otturazione e la cosa finiva lì. Oggi invece si sa che la carie è il segno di una malattia legata all'infezione della bocca da parte di determinati batteri e a un modo sbagliato di produrre igiene orale e di alimentarsi. Allora, è vero che la carie deve essere sempre trattata, ma deve essere trattata contemporaneamente all'eliminazione dei batteri, all'eliminazione degli zuccheri dalla dieta o comunque una modifica delle modalità di assunzione e una modifica delle modalità di praticare l'igiene orale domiciliare. Quindi si cura la malattia nel suo complesso, la malattia carie, che non è soltanto la lesione che noi vediamo. Senta, professore, ma siamo ancora alla carie soprattutto fra gli spazi interdentali per gli adulti, o è cambiato qualche cosa? Cioè il fatto che noi italiani, per esempio, non siamo molto avvezzi a usare il filo interdentale, cioè la carie dove va a collocarsi? La carie va a collocarsi soprattutto negli spazi interdentali, a dispetto dell'uso del filo, perché la fluorizzazione è un fenomeno molto poco utilizzato, perché il filo sì, viene anche utilizzato molto poco, e soprattutto perché non si utilizzano quelle metodiche di oggi, per esempio l'uso di lampade particolari, che consentono di scoprire le carie molto molto piccole che sono negli spazi interdentali e che possono addirittura essere trattate con dei sistemi di rimineralizzazione, vale a dire senza più utilizzare il trapano. Le lesioni piccolissime iniziali dello smalto possono essere trattate in modo da portare a un reintegro dello smalto senza l'uso di materiali estranei da otturazione. Finalmente ha strappato un sorriso alla Nicoletta. Vero? E io di sorriso, come forza proprio comunicativa del sorriso, vorrei parlare con la dottoressa Sara Viola, perché stavamo pensando, prima di entrare in onda, dottoressa Viola, ne vorremmo parlare con lei insieme ad Alessandro Pellizzara, abbiamo detto sicuramente il sorriso fa bene a chi lo riceve, ma fa bene anche a chi lo dà, si dice, no? Non costa nulla, e noi anche dal modo in cui sorridiamo possiamo capire qualcosa di noi, qualcosa in più di noi. Assolutamente. Insomma, sì. Con un sorriso prendiamo due piccioni. Assolutamente, facciamo però una premessa triste, diciamo, in antitesi quindi col tema della nostra trasmissione. Oggi si sorride molto poco, molto poco, molto di fretta, quasi c'è una sorta di pudore a sorridere, anche un certo imbarazzo, è come se sorridere ci facesse sentire un po' in colpa, perché i tempi sono quelli che sono, e quindi nella nostra cultura il sorriso è un elemento quasi distintono rispetto al mood, all'umore corrente. E devo dire però che questo sta diventando più un fatto culturale che un fatto, diciamo, legato alla difficoltà reale del nostro momento, perché ci sono culture molto più povere, molto più in difficoltà, molto più arretrate rispetto a noi, che sorridono tantissimo, potremmo dire alla faccia dei loro problemi. Allora domandiamoci come mai tra noi è diventato così difficile. Pensi che anche in terapia, quando si accoglie un paziente sorridendo, il paziente ti guarda un po' male, con dubbio, con sospetto, come dire: ma questo perché sorride? Cosa c'ha da sorridere, cosa c'ha da ridere? Allora dovremmo fare una riflessione ciascuno di noi anche nella nostra realtà familiare, perché poi in famiglia un sorriso è oro, a quanto poco sorridiamo, quindi quanto poco apriamo il nostro animo all'altro. Un giorno senza un sorriso è un giorno perso, Alessandra. Abbiamo sottolineato questa frase di Charlie Chaplin che ci teniamo come motto della giornata di oggi. 824-0024, quindi riflettete sul sorriso, riflettete anche su quanti sorrisi fate, che sorrisi vorreste dare, quali ricevete, ma soprattutto andate anche davanti allo specchio, perché oggi insieme al professor Weinstein cercheremo di capire perché la salute della bocca è così importante. Insomma, come anticipava già Alessandro Pellizzari, non si ferma lì, ma la salute della bocca è importante per la salute generale di tutto l'organismo. Quindi occhio e, mi raccomando, stile di vita. Una mela al giorno. Qualcuno vi ha mai detto che avete la testa dura? Bene, sappiate che al di là delle intenzioni che questo modo di dire racchiude, il vostro amico ha detto il vero. Abbiamo tutti la testa dura perché le ossa del cranio sono più forti di quelle del resto del corpo. E quanto suggeriscono i risultati di una ricerca condotta da un'equipe della Queen Mary University di Londra e adesso pubblicati su una rivista scientifica molto prestigiosa, si chiama PLOS ONE. Bene, la scienza oggi conferma quello che in fondo tutti noi sospettavamo. E la ricerca in esame apre prospettive interessanti per la diagnosi dell'osteoporosi. Cerchiamo di capire perché, insieme alla professoressa Maria Luisa Brandi, che è ordinario di endocrinologia all'Università di Firenze e direttore dell'unità operativa delle malattie del metabolismo osseo all'ospedale di Careggi. Buongiorno professoressa Brandi, benvenuta, anzi bentornata. Buongiorno a tutti. Professoressa Brandi, perché il sapere che le ossa del cranio sono diverse da quelle del resto del corpo può essere utile per una diagnosi più precisa dell'osteoporosi? Intanto non dobbiamo meravigliarci di questo, le ossa del cranio hanno un'origine embriologica diversa, derivano da un foglietto embrionale diverso da quello di tutte le altre ossa del nostro scheletro e hanno infatti una capacità osteogenica che ora è stata dimostrata da questi studi in vitro molto maggiore di quello delle altre ossa, cioè voglio dire che sono in grado di formare più osso. Pensare che le ossa del cranio sono state studiate per anni in vitro, soprattutto quelle dell'animale, per studiare la capacità osteoformativa del nostro scheletro. Quello che è molto importante di questa ricerca è che ovviamente già ci dà informazioni su nuovi geni che sono coinvolti nella osteogenesi e quindi può aprire prospettive per capire meglio come è controllata la formazione a livello del nostro organismo, ma soprattutto ci fa capire che quando noi facciamo un esame che si chiama MOC, che sta per mineralometria ossea computerizzata e quindi è quella che noi andiamo a fare per vedere qual è la densità delle nostre ossa, molto spesso noi vediamo quando l'esame viene richiesto a livello di tutto il corpo, quell'esame che si chiama total body, che i valori vengono falsamente alti. Questo perché nel total body la somma di tutte le ossa del nostro corpo dà il risultato che poi il medico va a leggere come buono o meno buono. E questo è qualcosa che il medico deve cominciare a leggere con grande attenzione, perché nella MOC total body anche le ossa del nostro cranio sono comprese e spesso rappresentano, la fanno la parte da leone, sono quelle che vanno a dare l'informazione sbagliata facendo credere al lettore che è meno esperto che quel risultato è un risultato buono e che quindi noi non abbiamo l'osteoporosi, quando invece potremmo già averla a livello delle nostre, della nostra colonna vertebrale, quindi delle vertebre e a livello del femore. Proprio perché le ossa del cranio sfalzano, insomma, facendo di ogni erba un fascio, professoressa Brandi, si trascurano dei dettagli, dei valori importanti e quindi Il consiglio è che quando viene chiesta la MOC total body, e spesso questo avviene soprattutto per esempio nelle persone in età avanzata dove esistono anche deformità scheletriche che possono per sé andare a inficiare il valore della MOC, noi dobbiamo stare molto attenti a vedere qual è in quell'individuo la densità a livello del cranio, perché quella ci appare e potrebbe essere per esempio una persona che oltre ad avere una densità maggiore, perché come sappiamo ora fisiologicamente questo avviene, potrebbe per esempio aver avuto degli impianti dentari nella sua vita e questo ancora di più amplifica la lettura della MOC. Quindi è bene che il medico, quando sospetta fortemente una osteoporosi in un soggetto, non guardi il valore total body e dica no, tutto va bene, ma lo guardi con attenzione cercando di separare le varie parti, perché in quel valore noi vedremo cranio, tronco, gambe, braccia e quindi questo ci darà già una informazione maggiore e forse potremo da quel momento andare a fare un esame più particolare, che per esempio potrebbe essere a livello del femore oppure a livello dell'avambraccio se le deformità della colonna vertebrale non ci permettono di fare una MOC lombare. Professoressa Brandi, è stata chiarissima, io la ringrazio, le auguro una buonissima giornata. Altrettanto a lei e a tutti. Pronto soccorso. Un sorriso che non dai è un sorriso che non hai, ci scrive Osvaldo al 349-238-6666 800-24-0024 per richieste sorridenti riguardo alla salute della nostra bocca, ma anche al modo in cui sorridiamo, a quanto sorridiamo, ai sorrisi che riceviamo, che ci dicono anche tanto delle persone che ce li regalano. Abbiamo la dottoressa Sara Viola e il professor Roberto Weinstein, a cui chiedo subito di darci degli esempi di bei sorrisi, professor Weinstein. È una domanda facilissima, anche se devo aggiungere una cosa, che il motto della nostra clinica, quello che si trova sul nostro sito, è l'amicizia incomincia con un sorriso. Oggi ce li scriviamo e poi li mettiamo, li usiamo. Allora, l'amicizia inizia con un sorriso, questo mi piace molto. È un modo di rapportarsi. Allora, quali sono i sorrisi belli? Le faccio un esempio del quale discutevo con un collega collega qualche giorno fa, Julia Roberts, che è una bellissima donna e viene considerata una donna con un sorriso straordinario, non ha un parametro analizzato sui libri di anatomia o sui libri di chirurgia plastica o di chirurgia maxillofacciale che sia in linea con i parametri di quello che è bello. Sì. L'insieme però ne dà un risultato assolutamente straordinario, non ha un profilo regolare, non ha una bocca molto grande, sproporzionata a tutto il resto, eccetera, ma l'insieme però... è molto bello. Allora, molto bello, senza andare a riferirci a Benedetto Croce che diceva che è bello ciò che piace, che però è sostanzialmente il modo con il quale ci si deve confrontare. Il bello in assoluto non c'è, c'è il bello regolarissimo, ma il sorriso bello è il sorriso che ispira simpatia, il sorriso che piace, il sorriso con il quale si comunica. Se poi i denti sono radio o ravvicinati, sono regolari o irregolari, se il naso è un po' all'insù, se le labbra si aprono in un certo modo piuttosto che in un altro, è assolutamente un concetto individuale, soggettivo, e quindi non si possono dare regole di nessun genere. Andiamo da Piera, che ci chiama da Torino, 824 0024. Piera, buongiorno. Buongiorno. Io sono una persona che sorride abbastanza. Brava. Anzi, ho anche il vizio di canticchiare a volte tra me e me, cosa che non è sempre vista bene. Però, e daranno della matta. Appunto. Però mi è capitato, e questo è un fatto legato al sorriso. Una domenica mattina stavo recandomi a messa, ho incontrato un signore in un giardino, l'ho salutato con un largo sorriso, e questo mi ha detto: ma perché mi prende in giro? Pensa te. Sono stata molto umiliata, evito sempre di passare. Io non penso che Piera, chiediamo aiuto alla dottoressa Viola. Non è Piera che si deve sentire umiliata, è proprio quel signore, evidentemente, che aveva una vita molto povera. Assolutamente non è Piera, anzi io sarei molto triste se Piera pensasse di non sorridere più. Però è un po' quello che dicevamo prima, c'è un capovolgimento tale dei messaggi comunicativi, per cui chi si pone con un sorriso, con un messaggio di apertura, alla fine passa per una persona sospetta, qualcuno che fa qualcosa contro. Siamo molto più avvezzi a un broncio, a essere accolti con un broncio, che con un sorriso. Io vorrei dire, a proposito della domanda di prima, che tutti i sorrisi sono belli. Dal punto di vista psicologico tutti, anche il sorriso, non me ne voglia il professore, più sdentato e più cariato del mondo, è comunque bello, perché il sorriso è qualcosa che accoglie. Invece l'espressione corrucciata o comunque chiusa è qualcosa che respinge. Ecco perché il sorriso è bello, perché avvicina. Se il sorriso è bello, se è fresco, pulito, diretto, sincero, perché ci sono tanti, anche il sorriso, che diciamo tante volte vale più delle parole, ha tanti significati. Alessandro Pellizzari lo sa bene. A me veniva in mente, a me per esempio non piace essere salutato con salve dalle persone che incontro, no? Un bel buongiorno va bene. E ho notato che ci sono dei sorrisi che sono buongiorno e dei sorrisi che sono salve, no? Dei sorrisi striminziti. A mezza bocca. Esatto, è un po' quello, un po' il modo, diciamo, di rapportarci con gli altri, sempre con un'attenzione... forse milanese, non lo so. Vediamo come sorridono a Bergamo, perché c'è Ugo che ci aspetta. 824 0024. Ugo, buongiorno. Buongiorno dottore. Io volevo appunto sorride. Quanti sorrisi ha già fatto oggi? Io oggi mezzo. Allora ne faccia uno a noi, che così saliamo, uno e mezzo. Anche perché il tempo è grigio, per cui non è facile sorridere con questo tempo qua. Va bene. Scherzavo comunque. No, io diciamo che volevo dire che vista la situazione dei miei denti, che è alquanto, ha presente i lavori della TAV, no? Sì. Ecco, per farla breve. Nel 78 io feci fare delle coperture ai denti davanti, insomma... sono un po' messo male, ecco. E poi tra l'altro alcuni ponti si sono staccati, ho dovuto alcune coperture toglierle. Ho rifatto un lavoro nel 2007 ancora, mi hanno messo delle protesi che si possono togliere. Sì, quindi insomma lavori in corso, Ugo, diciamo così. fare. No, io potrei fare, scusi, potrei fare, far fare alla mia età, sui 50 anni, un'implantologia. C'è questa possibilità, la fanno, sento che ne sento parlare. Allora, professor Weinstein, è una risposta lunga o una risposta breve? Di un attimo, è molto raro praticare degli impianti nei giovani, perché i giovani di solito hanno tutti i denti, ne perdono uno esclusivamente per trauma, non di più, mentre gli impianti sono indicati nelle persone un pochino più cresciute, e 50 anni oggi uno è poco più che un ragazzo. Gli impianti si eseguono anche nei pazienti molto molto avanti con l'età, e non esiste controindicazione dell'età, se, a meno che non ci siano malattie sistemiche importanti concomitanti. Così Ugo anche non dovrebbe continuare a tornare a rifare lavori? Scusi, volevo soltanto un'ultima domanda veloce. Sì. Sarò breve. Ho sentito parlare di questi dentisti, queste associazioni. Scusi Ugo, facciamo così. Io mi sto già beccando da Fabio Cantadori il cartellino giallo. E siamo tornati insieme, parliamo di bocca, di denti, di gengive, di lingua, ma soprattutto, e questo mi piace farlo oggi quando Ugo dice il tempo è grigio e tutti siamo un po' abbacchiati al lunedì, vogliamo parlare della forza comunicativa del sorriso. Ugo, un minuto per la sua domanda, così il professor Weinstein le risponde. No, volevo un consiglio, cosa, a chi rivolgermi. Io ho sentito parlare di tutte queste associazioni, Amico Dentista, adesso anche su Facebook fanno una pubblicità. Professor Weinstein, come si sceglie un bravo dentista? È una bellissima domanda. Noi sappiamo che le inserzioni funzionano molto poco, perché uno poi va a vedere lo studio gli piace o meno. Il sistema che funziona di più è il passaparola con gli amici che hanno provato, e poi guardare in faccia il dentista, capire se ci esprime fiducia, e poi andare a guardare eventualmente su internet e cercare di capire chi è, se appartiene a una struttura che ha fatto delle ricerche, che ha pubblicato. Ci sono diversi sistemi, io vedo i pazienti quando arrivano nel mio studio, non sanno di tutto me. Di lei. Sì, probabilmente più di quanto non sappia io, e quindi in questo modo si utilizza internet per essere informati. La pubblicità è invece un qualche cosa alla quale stare molto attenti, perché evidentemente si può scrivere quello che si vuole, basti pensare alla pubblicità che viene fatta dei dentisti che stanno in paesi stranieri, nei paesi dell'est. La pubblicità è basata esclusivamente sui costi molto più bassi, ma poi non hanno i controlli delle aziende sanitarie, e quindi possono fare quello che vogliono senza dover rispondere ai nostri ordini professionali. E lì non c'è niente da ridere a proposito di sorriso. Ma lì il sorriso scompare. Professor Weinstein, con Alessandro eravamo molto interessati a tornare su queste lampade. Sì, lei aveva fatto riferimento alle carie interdentali, no? Dicendo a volte il filo non è sufficiente, però ci sono delle lampade che riescono a scoprire queste carie piuttosto cattivelle in maniera precoce. Ecco, come paziente, come ascoltatrice o ascoltatore, come ormai faccio, ti sei immedesimato nelle sapere, donne? Beh, sai, le elettrici di star bene sono sempre nel sottofondo. Come faccio a capire se il mio dentista usa questa lampada così importante? E poi lei ha detto in questi casi si usa solo la fluorizzazione, cioè si No. Allora, se il dentista usa questa lampada glielo si chiede. Questo è uno strumento molto piccolo, con un piccolo laser, uno strumento anche poco costoso, costa un migliaio di euro, con il quale si incomincia a vedere se una zona interdentale è a rischio o meno. In più la conferma la si ha dall'esecuzione di due radiografie che si chiamano bite wing, con le quali si mettono a confronto i dati della lampada e dell'immagine radiografica. Solo utilizzare le immagini radiografiche per scoprire le carie interdentali è l'unico metodo sicuro e certo. Per scoprire quelle precoci ci vuole invece questo tipo di lampada, che è entrata in commercio da non molto tempo e che è molto molto semplice da utilizzare. Che però riesce a fare prevenzione. Allora, per essere precisi, dentro della prevenzione ci sono diversi livelli. Questa non è prevenzione primaria, ma una Esatto, diagnosi precoce. Molto precoce. Anche perché della salute della nostra bocca dobbiamo occuparcene non solo per un problema estetico, ma anche per un problema di salute generale dell'organismo, professor Weinstein. Certamente, perché la presenza di malattie infiammatorie nel cavo orale, la parodontite una per tutte, è in grado di determinare un incremento molto molto elevato del rischio di ammalare di malattie cardiovascolari o di patologie di altro genere, per esempio di aggravare il diabete. Quindi attenzione, super attenzione. Dottoressa Viola, torniamo al nostro sorriso. Noi sorridiamo per comunicare simpatia, per smorzare emozioni negative, per abbassare l'ostilità. Sorridiamo anche quando siamo in imbarazzo. In questo caso il sorriso è un segnale di autodifesa, ma a volte usiamo anche il sorriso per ferire, perché ci sono dei sorrisi intenzionali e sorrisi invece che sfoderiamo senza volerlo. E quindi dietro ad un semplice sorriso, che noi vorremmo fosse sicuramente più di casa sui nostri visi, si agita davvero, direi, un mondo di emozioni, per dirla alla Pellai. Assolutamente sì, il riso sardonico, quello con cui tu sbeffeggi l'altro, il riso isterico, quello che ti viene fuori quando tu in realtà stai dicendo delle cose cattivissime al tuo interlocutore, questi però non sono sorrisi, questi sono piccoli atti aggressivi, sono delle smorfie più che dei veri e propri sorrisi. Invece si può sorridere davvero anche dicendo delle cose assolutamente negative, senza che l'altro si senta preso in giro, anzi direi che è una cosa negativa detta con un sorriso, che vuol dire ti sto dicendo questo ma ti voglio molto bene, o comunque ti stimo, comunque mi piaci, ma in questo caso hai fatto una cosa sbagliata. Direi che mette l'interlocutore nella posizione di ascoltare meglio quello che diciamo, anche se quello che diciamo sta comunque ferendo oppure sta dando fastidio. Il sorriso è un veicolo sicuro di messaggi positivi e di messaggi negativi, solo che noi risparmiamo troppo sul sorriso, lo teniamo proprio tutto per noi, e tengo proprio a ribadire, soprattutto in famiglia si sorride troppo poco, si sorride perché poco ai bambini. Perché, dottoressa Viola, non proviamo oggi a darci un piccolo compito? Beh, sorridiamo per esempio almeno 5 volte alle persone che ci piacciono di meno, perché quelle che ci piacciono di più è facilissimo che le accogliamo con un sorriso, ma cerchiamo di sorridere a chi di solito non ci piace come approccio, e soprattutto, non finirò mai di dirlo, sorridiamo ai bambini, perché i bambini si nutrono del sorriso, i bambini vivono di sorrisi, i bambini accolgono il cuore dei grandi attraverso il loro sorriso. Sì, sono poi questi sorrisi. Alessandro Pellizzari, che è papà di 3 bambini magnifici, una piccolina Rebecca, e lui mi diceva: guarda, io mi affaccio alla sua cullina, sono obbligato io a sorridere perché lei mi fa questi sorrisi da un orecchio all'altro appena mi vede. Tu dici, ma e dice anche papà, adesso è iniziata anche a dire papà. Ma io vado da Fabio, che ci chiama da Brescia. Fabio, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, questo sì che ci fa sorridere, grazie ma Fabio. Io sorrido sempre, infatti è una cosa che ho voluto chiamare subito, perché io vivo nei sorrisi, nel senso che sono papà, ho 2 bambini, ne arrivo al terzo. Bravo. Vivo costantemente col sorriso, e da 5 anni faccio il clown di corsia e cerco di portare nel limite del mio possibile, delle mie capacità, il sorriso ai bambini malati. Ed è un lavoro, tra virgolette, ovviamente, sì, meraviglioso, certo. Meraviglioso. E funziona? È bellissimo. E devo dire la verità, raccolgo 1000 volte di più rispetto a quello che tengo. Sì, immagino. Fabio, lei lo sa che noi abbiamo avuto l'onore di avere qua in linea Patch Adams, abbiamo la sua intervista, sì, che potete come sempre, come tutti, ascoltare. Anche dal vivo anch'io qua a Brescia. È veramente un uomo che ti fa nascere il sorriso dentro. Grazie Fabio, complimenti. Grazie. E andiamo a Pier, che ci chiama da Brescia. Pier, buongiorno. Buongiorno, io volevo porre una domanda che si pone al centro tra il mondo appunto umanistico e quello scientifico. Una alla dottoressa De Rosa. Si chiama Viola, ma lei ma perché vede, dottoressa Viola? Rosa è arrivata alla Viola, ma è sempre un fiore. No, si figuri. È stato un lapsus. Pier. Allora, perché il riso si è evoluto per selezione naturale? Perché noi ridiamo, quindi? Perché ridiamo da tempo, quindi sì. Perché? È un'altra tecnica di retrazione gengivale. Quale spazzolino utilizzare? Quello medio oppure quello morbido? Perché io ho retrazione gengivale, eppure ho 27 anni. Okay. Quindi volevo sapere queste due, volevo sapere. Vede, Pierre coinvolge i due mondi. Che così, dottoressa Viola, perché noi sorridiamo? Allora, ci dice il sorriso nasce insieme alle emozioni, quindi è dall'Homo sapiens che noi sorridiamo. Prima no, è dall'Homo sapiens perché è l'Homo sapiens che sperimenta l'emozione, anche nella relazione con gli altri. L'ominide prima aveva una relazione di branco, quindi non c'era nessuna emozione nella relazione con l'altro. Invece il riso e il pianto nascono quando l'altro, in qualche modo, anziché essere uno qualsiasi, muove delle emozioni dentro di noi, e quando l'uomo diventa consapevole della propria emozione. Il problema è che appunto riso e pianto nascono insieme, ma il riso ce lo siamo un pochino dimenticato per strada. Però si può ripassare velocemente. Professor Weinstein, le gengive si ritraggono, che spazzolino uso? Allora, lo spazzolino deve essere uno spazzolino in grado di non danneggiare il tessuto gengivale, di non danneggiare lo smalto. Il concetto di medio, duro, eccetera, è molto soggettivo, e in commercio esistono gli spazzolini duri che per un'altra marca magari sono morbidi, eccetera. Questo dipende dalla lunghezza e dal diametro dei filamenti. Quindi si tratta di sentire con la mano uno spazzolino che sia in grado di essere sufficientemente morbido da non danneggiare la gengiva, e contestualmente in grado di rimuovere la placca dentaria. Quindi, facendosi aiutare dall'igienista dentale che lavora nello studio di un dentista, o dal dentista se questa figura professionale non è presente, si trova lo spazzolino che va bene per quei tessuti gengivali. Ma più che lo spazzolino è la tecnica con la quale si utilizza lo spazzolino. Se si sfregano i denti con movimento di va e vieni e si utilizzano le punte, si ha l'assoluta certezza di distruggere le gengive. Se si utilizza una pressione tale per la quale dopo 10 giorni di uso lo spazzolino si apre come un mazzo di fiori, si è utilizzata una pressione eccessiva. Se si cambia lo spazzolino una volta alla settimana, si fa bene l'igiene economica del farmacista, ma non la propria igiene orale, perché gli spazzolini nuovi danneggiano le gengive, mentre a poco le setole si arrotondano e lo spazzolino non è più in grado di distruggere il tessuto gengivale. Quindi se spazzoliamo adeguatamente, quindi dall'alto verso il basso e non in orizzontale, ecco, no, ogni quanto lo cambiamo lo spazzolino? Ogni mese e mezzo? No, è un po' poco. Non più frequentemente di una volta ogni 3 mesi, perché se lo cambiamo più spesso vuol dire che sbagliamo qualcosa. Esatto, che utilizziamo per esempio troppa pressione. E quello elettrico? Lo spazzolino elettrico è in grado di produrre un'igiene orale molto, molto buona, paragonabile o di poco superiore a quella dello spazzolino manuale. Adesso ci sono degli spazzolini nuovi fatti con una forma particolare che danno risultati paragonabili. Il problema è un problema di tipo psicologico, cioè a volte l'acquisto dello spazzolino elettrico insinua nella mentalità di chi lo compra l'idea di aver già fatto tutto quello che si poteva fare per l'igiene orale. Ho fatto un sacrificio economico e quindi ho fatto il massimo per la mia igiene orale, e quindi la motivazione a usarlo diventa minore. Quindi ogni individuo è diverso, fortunatamente, e in ognuno la motivazione a spazzolarsi deve trovare le sue ragioni. E mi raccomando, sempre dopo i pasti, vero professor Weinstein? Beh, insomma, non bisogna diventare neanche matti. 3 volte al giorno, diciamo. Allora, se 3 volte è perfetto, se mattino e sera prima di coricarsi è sufficiente per distaccare la placca, e se uno è in ufficio può anche non diventare matto a spazzolarsi per 5 minuti, ma l'importante è che esegua degli sciacqui per rimuovere i detriti. La placca, se viene disgregata dallo spazzolino 2 volte al giorno, non è in grado di rappresentare ceppi batterici in grado di produrre dei danni. Andiamo da Roberta, che ci chiama da Modena, vediamo che cosa ci racconta del suo sorriso. Roberta, buongiorno. Buongiorno, io lavoro nel settore dell'estetica e volevo appunto parlare del sorriso, perché quando si presenta un cliente una volta, cioè la prima volta o la seconda volta, che magari non si ha una certa confidenza, certo, si accolgono tutti col sorriso, però questi qua magari vedendoti sorridere sono un po' preveduti e pensano: ma mi sta prendendo in giro, cosa sta pensando di me? E poi si cerca di metterli a suo agio facendoli accomodare, poi magari offrendo una tisana, una caramella, sì, qualcosa, allora ecco lì si rompe un po' quella barriera che lei nota, proprio perché, come diceva la dottoressa Viola, si sorride talmente poco che il sorriso viene guardato con sospetto. Dottoressa Viola. È incredibile il numero di conferme che abbiamo su questo dato che tra l'altro sta un po' contagiando anche il mondo dell'infanzia. Torno su questo argomento perché mi viene in mente quante volte, andando a prendere a scuola i miei figli, anche piccoli, vedo i bambini uscire tristi dalle loro aule, e non tristi perché abbiano qualche ragione, ma perché oramai l'espressione corrente è proprio quella di un viso, se non corrucciato, un viso serio. Ecco, noi siamo tutti molto molto seri, e per contrasto mi vengono in mente invece i sorrisi dei bambini della Tanzania che ho avuto l'occasione di incontrare in un viaggio di lavoro recente, che non conoscendomi per nulla mi sorridevano a denti proprio in bella vista, questi denti meravigliosi. Perché sorridono questi bambini? Perché nessuno ha insegnato loro che c'è qualcosa di pregiudiziale o di negativo in un sorriso, e spero che non lo imparino davvero mai. Dottoressa Viola, grazie per essere stata con noi. Professor Weinstein, è stato un piacere. Anche per me, mi diverto grazie sempre, voi, sto bene con voi. Grazie, allora tanti sorrisi anche a voi. Ma prima di salutarci abbiamo il piacere di avere in linea con noi il professor Peppe Dell'Acqua, psichiatra, erede di Basaglia al Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, sono giorni di grande fermento. La fiction sulla RAI ripropone e fa conoscere il lavoro di Basaglia e soprattutto delle persone che, credendo in lui, hanno lavorato al suo fianco per restituire i diritti in fondo a quelle persone a cui è stato negato solo perché diversi. E proprio domani si apre a Trieste un meeting in cui più di 1000 psichiatri ed esperti, che arriveranno da 40 paesi, faranno il punto sulla salute mentale oggi. E professor Dell'Acqua, lei è coinvolto in prima persona in entrambi gli eventi, perché è stato consulente della fiction di Rai 1 come racconto, come storia, come memoria, come assistente di Basaglia, è stato uno dei maggiori fautori dell'apertura del primo centro di salute mentale, e ci sarà anche, sarà presente anche in questo convegno dove farete il punto, no? sulla salute mentale a distanza di 30 anni. Allora, abbiamo un minuto e mezzo per commentare tutto questo mondo che si intreccia, no? Dalla RAI agli esperti, dalla fiction alla realtà. Sì, beh, è stato veramente un'occasione, una concomitanza straordinaria, perché una cosa ha tirato l'altra, e quindi alla fine uno degli obiettivi che noi abbiamo nel proporre queste convocazioni è che si parli, si rifletta, si vada oltre il luogo comune rispetto a queste questioni. Mi pare che lo stiamo raggiungendo. Inutile dire che il lavoro di Marco Turco, il regista, e la bravura di Giffuni, della Puccini, ma di tutti gli attori, ha riproposto in maniera veramente straordinaria questo tema, andando anche a colpire, come dire, perché tutto sommato tutti pensano di sapere, quando parlano di Basaglia e della legge 180, che cosa dicono. In realtà poi scopriamo, sia con gli studenti che con le persone, che poi non è così, cose molto approssimative. Certo. Su quell'approssimazione si creano ragionamenti, discorsi che finiscono per essere poi fallaci e devianti. Una cosa. L'altra cosa è che viene trascinata da questo, è questo incontro triestino che si chiama appunto Trieste 2010, che cos'è salute mentale. E diciamo che l'obiettivo generale è un po' quello di tenere fede a una responsabilità convocatoria, mi verrebbe a dire, di Trieste, no? Trieste nel 77, il grande esodio alternativo alla psichiatria, e così di 10 anni in 10 anni sono un po' tutte le reti che si sono costruite nel mondo, dal Brasile all'Argentina, all'Islanda, all'Ucraina, eccetera, eccetera, che si muovono su questo tipo di lavoro, i governi che si muovono su questi, che gli operatori, i familiari, i cittadini, insomma, che hanno bisogno di volta in volta, pronto? Sì, che hanno bisogno di volta in volta di riconoscersi, di trovare un vocabolario comune, di mettere in sesto insieme un lessico. Io credo, professore, che sia la fiction sicuramente che sensibilizza, soprattutto il lavoro degli addetti al lavoro, riusciranno anche ad illuminare quelle zone d'ombra che necessariamente sono rimaste. Intanto, professore, dedicheremo un'intera puntata insieme a lei, speriamo di avere anche Gifuni o la Puccini in linea. Buon lavoro, grazie e buona giornata. Grazie a voi e buon lavoro. Appuntamento a domani.